Picchi di frequenza. Storie, viaggi, recensioni. La montagna vissuta a 360 gradi. Puntata numero 83 di Picchi di Frequenza. Questa settimana, come annunciato, avremo uno speciale in occasione della presentazione che lo scorso settimana si è tenuta a Piano Terra di Italian Limes. Seconda parte del nostro viaggio alla scoperta dei ghiacciai, questa volta non da un punto di vista scientifico, ma parliamo di un'installazione che racconta molto sui confini mobili. Notizie della settimana, andiamo a partire con Mountain Blog, Parco Nazionale Torri del Paine, un grande iceberg si stacca dal ghiacciaio Gray. In una foto pubblicata lo scorso 28 novembre, impressionante, un iceberg di 350 metri per 380 circa, non capitava da praticamente 30 anni, il ghiacciaio sta ora perdendo parecchi pezzi e potete andare a riscoprire appunto la notizia data dal CONAF sull'indirizzo di Mountain Blog. Ci spostiamo sul giorno e torniamo invece dai nostri lidi, perché siamo nel Triangolo Lariano. Triangolo Lariano che periodicamente, specialmente da un punto di vista speleologico, oltre che per la sua bellissima cresta Brunate e Bellagio, ci offre sempre grandi sorprese. Dune alte 3 metri, un deserto nascosto sotto i monti dell'Ario. L'ultima scoperta speleologica del Comasco racconta appunto di grandi gallerie e immense voragini. Ammirando i suoi dolci e verdi declivi, di certo non ci crederesti se qualcuno ti raccontasse che lì sotto al Pian del Tivano, bella conca nel mezzo dei monti del Triangolo Lariano, tra il Palanzone e il San Primo, a centinaia di metri di profondità, si dischiudono appunto grandi gallerie, antri dal paesaggio dantesco. Eppure alcuni speleologi, che da anni danno la caccia a quell'ambiente, non credevano ai loro occhi quando, durante l'esplorazione di una nuova grotta scoperta quasi per caso e dopo aver superato alcuni grossi pozzi, la stupenda visione, illuminata da potenti torce elettriche, di una galleria attraversata da grandi dune di sabbia finissima. Una sorta di deserto sotterraneo battezzato al momento l'abisso dei giganti. Curiosità, Mountain Blog ci segnala una possibile risposta ad una domanda che attanaglia tanti, o forse nessuno, ma io comunque ve la segnalo. Valanga o Slavina? Ecco la differenza. È stato interrogato il CAI, che dice sostanzialmente che Valanga e Slavina sono due sinonimi, sostanzialmente, ma sarebbe più corretto usare il termine di Valanga. Diverso invece è la distinzione tra frana e valanga, evidentemente. Laddove la frana fa riferimento a un fenomeno di movimento o caduta di materiale roccioso o sciolto, in sostanza di terra, mentre la valanga è di neve. Sembra banale, ma spesso i due termini vengono utilizzati anche in questo caso come sinonimi, e quindi noi vi segnaliamo anche queste. Andiamo a concludere questa prima rubrica di apertura di Picchi di Frequenza in termini di fatti e notizie di montagna con un pezzo da mountcity.it dal titolo 3 metri che valgono una vita. Non ve lo leggo tutto, ma vado dritto un pochino al punto. In una puntata di Kilimangiaro su Rai 3 dello scorso 3 dicembre, Hervé Barmas, ospite fisso della trasmissione, ha raccontato con la schiettezza e la simpatia che lo distinguono la storia della sua scalata del 21 maggio 2017 allo Shisha Pangma. Siamo evidentemente in Himalaya, in Tibet. Le cronache specializzate avevano già dato rilievo alla notevole impresa, bla bla bla. Compiuta dal valdostano con il tedesco David Guttler, ma la cosa interessante è che a 8.024 metri, quindi a 3 metri dalla vetta, l'impresa è stata abbandonata. L'articolo insomma si dilunga sul raccontare perché l'impresa è a tutti gli effetti è stata compiuta e sui giusti motivi dell'abbandono a 3 metri dalla vetta. Se ve lo volete leggere, non vi faccio spoiler, mountcity.it. cos'è Italian Limits? Italian Limits è un lavoro molto minuzioso su un tratto molto breve del confine italiano, principalmente perché anche a noi piace molto la montagna e perché anche a noi non piacciono i confini, quindi è una sorta di indagine quasi ossessiva sullo stato dei confini italiani, sulla storia dei confini italiani, per capire come spesso la definizione di un confine sia qualcosa di paradossale. È partito nel 2014 quando ci è stato chiesto di presentare una proposta di, diciamo, di un tema di ricerca per la Biennale di Architettura di Venezia. Non so se qualcuno di voi ha visto la mostra che c'era all'Arsenale nel 2014. Comunque l'idea di quella mostra era una sorta di scansione geografica del territorio italiano fatta per una serie di progetti. Questi progetti avrebbero dovuto descrivere o raccontare quella che è l'Italia contemporanea attraverso dei casi studio, quindi quello che noi abbiamo proposto inizialmente è stato non di guardare ad un luogo puntuale del territorio, ma in realtà un dispositivo territoriale, cioè quello del confine di Stato. In parte per un nostro interesse di ricerca di base, che è quello di capire qual è la relazione tra la rappresentazione del territorio, quindi la carta, e quello che è il territorio reale. Dall'altro perché già nel 2014 si parlava molto di confini in maniera, come dire, critica anche a livello della cronaca, ma si parlava molto dei confini meridionali dell'Italia, quindi dei confini sul Mediterraneo, della retorica del Mediterraneo, di Frontex e dell'Italia come baluardo contro l'invasione, no, dell'immigrazione clandestina. Invece noi volevamo guardare il confine opposto, quindi quello che era considerato quasi un confine sicuro dell'Italia, quindi il confine interno europeo. E una delle immagini che inizialmente abbiamo, una delle coppie di immagini che abbiamo inizialmente cercato di mettere assieme per raccontare, no, un po' l'interesse, è questa, cioè questa foto che descrive quello che era una condizione normale dell'attraversamento di un confine europeo prima del 1994, quindi prima degli accordi di Schengen, quindi del trattato sulla libera circolazione delle persone e le merci all'interno del territorio europeo, a quella che invece è oggi l'attraversamento di un confine interno europeo. Quindi qualcosa in cui di fatto questa linea che sulle mappe esiste ancora, nel territorio è completamente svanita, cioè non è più dichiarata nessuna architettura. L'unica cosa che ci segnala che stiamo entrando in un territorio amministrato, no, da uno stato diverso, è nella maggior parte dei casi questi cartelli che indicano il cambiamento delle norme sul traffico, dei limiti di velocità, eccetera, quindi diciamo, un confine amministrativo. Quindi quello che ci interessava capire era se a questa sparizione del confine materiale corrispondesse effettivamente alla sparizione del confine in sé, se non fosse anche questa una sorta di una retorica della globalizzazione, per cui è vero che lo spazio europeo è qualcosa di unito, ma è semplicemente unito per noi che abbiamo il privilegio di avere una cittadinanza europea e non per tutte le altre persone che invece sono soggette a controlli, a limiti, a limitazione nell'attraversamento di questi stessi confini. In più, appunto, perché già nel 2014 questo tema del confine come appunto un tema caldo, no, del discorso politico, critico, teorico, era già qualcosa di abbastanza evidente, no? Quindi da un lato viviamo in un mondo molto connesso in cui è molto facile spostarsi, ma per una porzione, mi sentite? Più o meno, no? Per una porzione della popolazione mondiale estremamente limitato. Quindi abbiamo scritto di fatto una proposta su questo, è stata accettata e di lì abbiamo cominciato a lavorare. Quindi quello che abbiamo fatto è stato, come prima cosa, andare da chi il confine l'ha disegnato in primo luogo, quindi da chi in primo luogo nella storia d'Italia si è occupato di definire il confine italiano, che è l'Istituto Geografico Militare, che immagino sia un ente che molti di voi avranno già sentito, è appunto l'ente cartografico dello Stato, quindi quell'istituzione parte dell'esercito in Italia, ma come succede per molti altri stati europei e extraeuropei, che si occupa di misurare il territorio, di produrre le carte ufficiali dello Stato. Quando abbiamo cominciato a vedere come i geografi hanno lavorato dall'Ottocento a oggi, una delle cose che ci ha subito interessato è stato cercare di capire come il confine poteva essere visto sul territorio, quindi come questa immaginaria linea di confine fosse stata stabilita su una cresta piuttosto che un'altra, secondo quale principio. A partire dagli anni 20, vediamo queste foto in cui il confine cerca di essere come dire, fatto coincidere con i rilievi naturali, no? Quindi vedete come in maniera molto, se volete, intuitiva, in quanto in questo periodo non esistevano ancora delle mappe molto affidabili o precise del territorio alpino per limiti, come dire, tecnici e infrastrutturali. Il confine veniva fatto identificare con queste creste. Perché lì e non da un'altra parte? Perché queste creste definiscono quella che è la linea displuviale. Quindi il confine italiano, di fatto, per una convenzione che a partire da metà 800 è stata introdotta nella geografia moderna, nella geografia contemporanea, quella che è la displuviale, cioè quella linea immaginaria che nella geografia di una catena montuosa separa i bacini idrogeografici, si è deciso che fosse un buon principio in base al quale un confine potesse essere fatto coincidere, no? E quindi questo lavoro di mappatura è stato mirato a capire appunto come questa displuviale si comportasse attraverso l'arco alpino. Questa displuviale è appunto una linea continua che collega il territorio da Ventimiglia fino a Trieste sostanzialmente, e che in parte coincide con le basse quote, con colli, quindi con elementi di fatto che determinano la differenza di pendenza tra due crinali diversi, in alta quota con cime o con creste rocciose, in larga parte sopra i 2500 metri con ghiacciai. A partire da circa il 2008, l'IGM ha constatato che a causa del cambiamento climatico, i ghiacciai alpini, come tutti sapete, hanno cominciato a recedere, a diminuire di volume e di massa in maniera consistente, e di conseguenza cambiare la loro geometria. E quindi quella che era il tracciato di questo confine su questi ghiacciai, quindi questa cresta immaginaria che attraversa questi ghiacciai per molti chilometri in molte parti diverse del confine, ha cambiato la propria forma, quindi la propria posizione. E a partire da metà anni 2000 l'IGM di fatto ha realizzato come questo problema fosse un problema estremamente esteso, perché dobbiamo immaginare il confine italiano come una sorta di linea che attraversa un arcipelago di ghiacciai, quindi attraversa molti di questi ghiacciai che negli ultimi 15-20 anni hanno cominciato a o scomparire oppure cambiare radicalmente la propria forma. Le carte ufficiali del confine di Stato erano obsolete e quindi necessitavano una ridefinizione in base a questa nuova forma di ghiacciai. E questo ovviamente era un problema dal punto di vista diplomatico, in quanto per cambiare una carta del confine non è un'operazione che può essere fatta in maniera autoreferenziale da uno Stato, ma deve essere concordata con quel paese confinante. Qui dovete immaginare questo ghiacciaio che adesso vedete ai lati di questa cresta rocciosa, precedentemente copriva questa cresta di roccia e quindi determinava l'andamento della displuviale del confine. Nel momento in cui questo ghiacciaio si è ritirato e quindi è sceso, la cresta di roccia diventa il nuovo confine di Stato e quindi cambia completamente proprio direzione e proprio corso. Questo caso è un confine di un confine mobile che non è più mobile in quanto coincide con una cresta rocciosa, ma ci sono centinaia di altri casi in cui il ghiacciaio semplicemente si è spostato e quindi ha determinato una variazione della linea di confine. Questa è un'immagine un'immagine zenitale, satellitare, invece di del confine in un altro tratto di ghiacciaio. Qui vedete due linee, quella rossa e quella del confine ufficiale fino appunto a inizio anni 2000, quindi quella dei trattati di pace con l'Austria del 1920. Quei puntini blu invece sono le nuove misure che l'IGM ha fatto nel 2012 in questo caso, per determinare l'andamento della nuova displuviale, cioè sono andati lì e hanno detto ok, la cresta di questo ghiacciaio non segue più quest'arco ideale che immaginiamo che negli anni 20 fosse stato rilevato in maniera molto imprecisa anche. Il problema che appunto a cui doveva essere trovata la soluzione è che è stata fatta con questa legge, quindi nel 2008, l'IGM ha detto ok, come possiamo risolvere questo problema nel contesto di una legislazione internazionale in cui ad ogni perdita di territorio di uno Stato deve corrispondere un'acquisizione di territorio dello Stato confinante. Lo possiamo fare trovando una nuova definizione, quindi stabilendo che il confine italiano di fatto è indefinito, quindi è qualcosa che cambia costantemente la propria posizione ed è mobile, E questo ci permette di superare il problema, in quanto semplicemente misurandolo di volta in volta ci permette di rifare la cartografia ufficiale e quindi di trovare un accordo su questo tipo con lo stato confinante, dicendo ok, il confine si è spostato qui e quindi le mappe di conseguenza vengono aggiornate. Questo disegno di legge si è tradotto in un doppio accordo con la Svizzera e con l'Austria, in cui si è stabilito, tra le altre cose, che ogni 2 anni deve essere fatta una nuova campagna di misurazione, quindi una commissione di geografi militari di entrambi gli stati deve misurare tutto il confine nazionale e rilevarne lo spostamento. In realtà è diventato il fulcro del nostro lavoro, nel senso che ci è sembrato quello che possiamo definire un glitch, no? Un sistema legislativo, no? Burocratico, di come uno Stato funziona, che ci poteva permettere di evidenziare quelli che erano i temi estremamente rilevanti, sia relativi a quello che sta succedendo oggi nel mondo, cioè di come il cambiamento climatico sta scardinando una serie di concetti che diamo per scontati, come la permanenza e la solidità e l'immobilità di un confine di Stato, dall'altro un tema che riguarda gli strumenti, il modo in cui osserviamo e misuriamo il mondo. Nel senso che il problema del confine mobile non è solamente causato dai ghiacciai che si spostano, ma è anche causato dal modo in cui li misuriamo. Nel senso che se i ghiacciai si fossero spostati in maniera radicale negli anni 50, probabilmente il problema non sarebbe esistito, nel senso che non avremmo avuto i modi, gli strumenti per poterlo misurare. Quindi oggi siamo in parte vincolati da una precisione della rappresentazione della misura, che allo stesso tempo ci crea una serie di problemi, no? Dal punto di vista legale, normativo e teorico. Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant, c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Quindi quello che abbiamo pensato di fare è cercare di rendere visibile ai visitatori della mostra questo spostamento in tempo reale, quindi capire come durante l'arco di un'estate, della durata della biennale, potessimo far vedere come il ghiacciaio si stesse spostando e quindi come il confine si stesse modificando. Quindi quello che abbiamo pensato di fare è stato di prendere uno di questi confini, come caso, di questi ghiacciai come caso studio. In questo caso vedete il ghiacciaio del Similaun, che è a circa 3600 metri di altitudine a cavallo tra Italia e Austria. Le due linee che vedevate anche nell'immagine di prima. Questa griglia di puntini azzurri è una griglia di circa 1 chilometro di lato, che corrisponde a una rete di sensori con i quali avremmo voluto ricostruire la geometria, i cambiamenti della geometria di questo ghiacciaio. Quindi l'idea era quella di creare una maglia di pixel, sostanzialmente, di coordinate geografiche, in cui fossimo in grado di rilevare ora per ora lo spostamento di questo ghiacciaio, la modifica della linea displuviale, quindi questa griglia a cavallo del confine. Di fatto si tratta di un sistema relativamente semplice, quindi una piccola board con una serie di sensori per parametri ambientali, di posizione, barometrici, in cui il problema principale probabilmente è stato quello di capire come tenere alimentati in maniera costante per circa 6 mesi questi sensori. L'idea era di installare ad aprile, raccogliere da ottobre, quindi coprire la durata della mostra con la produzione di questi dati. La tourniquette pour faire la vinaigrette, le ratatine ordu et le coupe friture. Et si la belle se montre encore belle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, au chauffe-savate, au canon à patate, à l'éventre tomate, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède parce qu'il faut qu'on s'entraide, et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois, et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois, et l'on vit comme ça. Euh, Però insomma sì, la cosa interessante era capire come la geometria di questa montagna si modificava in tempo reale, anche se con un certo grado di approssimazione, e ricevere questi dati per rappresentarli con un'installazione poi nel museo di Turno. Di questo forse parlerà Marco. L'ultima cosa interessante è che in questa seconda campagna, sostanzialmente, noi siamo dovuti andare in montagna per ragioni logistiche un po' prima della fine, diciamo, della stagione delle nevi, e quindi dopo 2 settimane, dopo essere andati lì con l'elicottero, i glaciologi, eccetera, eccetera, ho nevicato di un paio di metri proprio tutto. Quindi, per me è stato abbastanza un sospiro di sollievo, perché ho detto, bene, così non si romperanno uno ad uno, cioè non è stata colpa mia, il dio della montagna non voleva. In realtà poi a metà estate ricevo una chiamata per dire, hai visto, prendete un server nel quale arrivavano tutti questi messaggi. Io ho smesso di guardare da mesi ormai. E poi quando la neve è iniziata a sciogliersi, uno a uno hanno ripreso a funzionare, ad alimentarsi col loro pannello, e Marco adesso vi spiegherà. I puntini che avete visto prima nell'immagine corrispondono a ognuno di questi sensori, quindi c'erano 25 di questi sensori organizzati con una griglia regolare. Ciascuno di essi era appunto programmato per inviare ogni ora la propria posizione con i parametri sull'ambiente, quindi la luce, la temperatura, una serie di parametri sul funzionamento interno dei sensori. E poi c'erano un paio di sensori invece che erano attaccati alla roccia in punti vicini per calibrazione e la validazione dei dati. Quindi quello che abbiamo fatto una volta finito di costruire questi 27 sensori in totale, li abbiamo installati sul ghiacciaio, quindi inizio aprile, con un team di glaciologi, geofisici che precedentemente avevamo coinvolto nel progetto come consulenza scientifica, abbiamo organizzato questa spedizione appunto sul ghiacciaio. Nello schermo del navigatore dell'elicottero vedete il piano di volo, e questo è il ghiacciaio così come quello che avete visto prima nella cartografia satellitare, quindi la cima del Monte Similaun e questo piano. Dovete immaginare che il confine passa da qualche parte lungo questa superficie, quindi segue un tracciato più o meno regolare su questa superficie. In aprile c'era ancora della neve, quindi di fatto il ghiacciaio non era completamente scoperto. In circa 8-9 ore di lavoro abbiamo portato tutto il materiale in quota. Una griglia di 1 chilometro con 25 punti è abbastanza difficile e lunga da installare, nel senso che comunque ha una superficie abbastanza grande. Il gruppo era composto in maniera molto varia, eravamo circa una dozzina di persone, tra cui anche una giornalista americana di Vice, che è venuta con noi a documentare la spedizione. In parte noi, che di fatto appunto eravamo designer architetti, e poi un gruppo di geofisici e di glaciologi. Si vede come di fatto la scala del ghiacciaio, nonostante sembri relativamente limitata quando la si guarda in una mappa, sia poi molto vasta, quindi di fatto è impossibile avere una fotografia di questa griglia realmente, perché i sensori sono a una scala completamente ridicola rispetto a quella del ghiacciaio. Purtroppo il ghiacciaio è estremamente piccolo rispetto a molti degli altri che attraversano del confine interessati dal problema del confine mobile. Questa è una schermata di quello che noi ricevevamo dai sensori, era semplicemente ognuno di questi era programmato per mandare un SMS con una stringa di dati, molto banalmente altitudine, pressione e poi i dati ambientali, ogni ora. Alcuni li mandavano sempre, alcuni li mandavano mai, in realtà ciascuno di essi li memorizzava, quindi nel momento in cui avevano la connessione disponibile li mandavano in serie. Non c'è puntata di Picchi senza qualche segnalazione, evento, appuntamento da conoscere per questa settimana di montagna. Andiamo a incominciare da montagna.tv. Il titolo è Rai Storia celebra la giornata mondiale della montagna con il documentario su Nives Meroy e Robano Bennett, compagni di scalate e di vita. L'appuntamento è per l'11 dicembre 22:58 sul canale 54 del Digitale Terrestre e via discorrendo su TivoSat, piattaforma satellitare Sky, insomma andatevelo a cercare se fa per voi il documentario sui due grandi alpinisti italiani. Ancora un appuntamento per Cime a Milano, torna la rassegna in occasione della sua seconda edizione dell'11 e 12 dicembre in collaborazione tra Unimont, Università della Montagna, e Club Alpino Italiano. Tanti ospiti, l'Italia Mountain Lab, principe diciamo di questa edizione. Il programma lo trovate su Mountain Blog, mentre per ritornare invece sui nostri schermi sulla montagna che più ci piace, vi segnalo che l'Ape di Milano dà un appuntamento di conclusione della stagione 2017 con una risottata apeina e qualche racconto di montagna, ma anche un'occasione per dare qualche anteprima sul programma che partirà a partire, insomma, dalle prossime settimane, da gennaio 2018. L'appuntamento è per le 19.30 il 14 dicembre, giovedì, al piano terra di Milano, via Federico Confalonieri 3. But I'm a creep, I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts, I wanna have control. I want a perfect body, I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so very special, I wish I was special. But I'm a creep, I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. She's running out of gas. She's running out of run. Anche questa puntata della numero 83 in compagnia di Picchi volge al termine. Come di consueto vi ringrazio per essere stati con noi, spero vi sia piaciuta. Come sempre trovate l'archivio completo di queste oltre 80 puntate dove anzitutto all'indirizzo amonte.info, sul social network blu alla pagina Picchi di Frequenza o su quello azzurro all'account @abuzzo3. Da me, Abo, da Martino e Luca che fanno parte della redazione, un saluto, noi ci risentiamo certamente venerdì, ma prima di lasciarci, prima di salutarvi, vi do una piccola anticipazione, perché settimana prossima sarà in nostra compagnia Alessandro Gogna per un quarto d'ora, insomma, di assoluto interesse. Quindi cominciate a segnare, noi ci risentiamo venerdì prossimo alle ore 20 in punto sulle libere frequenze di Radio Onda d'Urto.